ti sentirei obbligato a farlo, così di sicuro non sarò obbligato ad ascoltarlo nelle radio come un tarlo. Il pezzo dell'estate non so più come insultarlo. Vabbè, alla fine parlo solo perché il mio pubblico non so come conquistarlo, molestarlo, calpestarlo e poi abbandonarlo. La parola estate in ogni pezzo solo per depistarlo, o forse per quel gusto di annoiarlo. Il mio disgusto non potete ingannarlo, pensarlo, tempestarlo, impossibile postarlo sui social, tutti pronti a commentarlo. E se condividete continuerò a bloccarlo, lo giuro sull'hip hop è impossibile amarlo. Per questo resto vero, vorrei sottolinearlo, e dal mio primo verso che il medio continuo a mostrarlo. Rompere i coglioni in ogni istante non è obbligatorio, come fare il pezzo dell'estate, posso farne a meno, giuro sul mio repertorio, come chi mi cerca per sapere come state. Rompere i coglioni in ogni istante. Quando chiedi aiuto sarò latitante. Dimenticando il mio nome non farei lattante. Non sono tua madre ma una persona come tante. Veda qualcun altro non essere irritante. Se non apri bocca sei più affascinante. E fatti nuovi amici non farei dilettante. Parole migliori di un politicante. Alle prossime elezioni obiettivamente potresti essere un ottimo rappresentante. All'estero fuori dai confini e ciò nonostante risulteresti fastidioso per ogni abitante. Ma non farci caso, sono riluttante. Ammetto i miei limiti, non sono un cantante. E forse nel 2013, amici, per quell'istante. Rompere i coglioni in ogni istante non è obbligatorio, come fare il pezzo dell'estate, posso farne a meno, giuro sul mio repertorio, come chi mi cerca per sapere come state.